7:30 minuti primi. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Da quest'oggi ancora di più nella squadra di Pane e Burro Rock and Roll. Sarà anche il tenente Templeton Peck, il mitico Sberla, il sergente Bosco Albert, pessimo elemento Baracus, detto P.E. Baracus. Ad aiutarci ad arrivare fino alle 9 ci sarà anche il capitano Owlin Mad Murdoch. Così ci si sveglia meglio, no? Andremo tutti in giro con il nostro furgone GMC nero, con le strisce rosse. Ma soprattutto ci sarà lui, il colonnello John Animals Beat, con il suo inconfondibile sigarozzo in bocca. Infatti sono già scattati i sigari qui negli studi di Rock FM. Aspetta che me lo accendo. Non c'è niente di meglio di un bel sigaro alle 7:31 minuti primi. Questa è Rock FM, Pane e Burro Rock and Roll. E quest'oggi, per svegliarsi, chiederà aiuto anche all'A-Team. Adoro i piani ben riusciti. Si chiamano Thin Lazy. Dopo un bel sigarozzo a quest'ora del mattino, una bella tazza di whisky è quello che ci sta, no? Whisky in the jar. E via. Shot him with both barrels. Quello che ci vuole, una bella tazza di whisky, ovviamente immaginario, che è stato offerto dai Thin Lazy, Whisky in the Jar. Ragazzi, un'altra mattina vado a vivere insieme qui su Rock FM. A volte, guarda che a volte mi soffermo a pensare quanto siamo fortunati, no? Ultimamente uno dei nuovi tormentoni è invitarvi a partecipare alla grande sfida Davide contro Golia. Sottotitolo La nicchia vincerà. E a volte penso a quanto siamo fortunati, perché io vi sfido, ragazzi, girate pure la vostra radio, smanettate pure sulla frequenza, andate da un'altra parte, al massimo guardate, stanno parlando o del testamento di Pavarotti, che anche embembe, con tutto il rispetto dovuto, se vi va bene bene stanno parlando della risposta di Prodi a Beppe Grillo su Porta a Porta. Ma tanto, cioè, le girate, ne trovate quattro, dicono la stessa cosa. In questa generazione dell'iPod, la musica, ragazzi, che cosa vi stanno trasmettendo gli altri? Andate a sentire! E poi tornate qua, perché qui c'è la passione, qui c'è la grande musica, quella con la G e la M in bolsetto. In bolsetto si dice... Come dite, sì, avete ragione, il DJ è un cialtrone, è vero, oh, e beh, ogni... è il rovescio della medaglia, ognuno ha un po' quello che si merita, no? Accontentiamoci che intanto c'è della buona musica, restate qui con noi. In anni di radiofonia, lo capisco subito quando ho detto una castronata, quando arrivano due messaggi da due persone differenti che dicono la stessa cosa e controbattono quello che ho appena detto. Qualche minuto fa, nel caso vi foste sintonizzati solo in questo momento, fuggendo da una radio che parlava del testamento di Pavarotti, ho parlato del lampione qui di fronte che si è spento. E ho detto, strano, si è spento alle 27, immaginando che ci fosse un... Io non lo so, ragazzi, immagino terra-terra, immagino un cronometro, come si fa nel, non so, col videoregistratore, a quell'ora spegniti... Uè. In rappresentanza dei radioascoltatori, quelli che ne sanno, gli ingegneri nucleari che ascoltano Rock FM, abbiamo Enrico. I lampioni funzionano con un relè crepuscolare. Un altro SMS dice: Ariel, c'è il crepuscolare. E tra l'altro questo SMS è arrivato prima. Immaginatevi cosa ha pensato la mia mente quando ho letto Ariel, c'è il crepuscolare. Cioè, non capivo cosa stava dicendo. Addirittura ne sono arrivati tre, perché arriva anche da Luca, amatissimo DJ Ariele, i semafori si spengono perché si chiamano crepuscolari. Buona giornata. Guardate, resti tra me e voi. Per me i crepuscolari erano dei poeti, non erano i poeti crepuscolari. Tipo gli scapigliati crepuscolari, quella roba lì. Va bene, oggi scopro che ci sono anche i lampioni crepuscolari. Grazie a voi, io guardate... Devo fare a meno di studiare, bastava restare qui a Rock FM, ne avrei imparate molti di più. Grazie 335 100 7777. Per ringraziarvi in maniera dovuta, qui si prosegue con la discoteca. Ditemelo, chi alle 7:40 minuti primi vi spara un Eddie Cochran così? che vi arriva sulle ginocchia. Sveglia amici, sveglia amiche. Come on, everybody. Questo è pane, burro e rock and roll. Di meglio non c'è. Arriviamo finalmente alle note gioiose di questo martedì mattina da vivere insieme. E quando si parla di gioia, eccolo comparire come un ectoplasma, manco fosse Ghostbuster, Roberto Fricantoni. Buona giornata, Frick. Buona giornata, intervengo con la nota gioiosa. Andiamo con i compleanni da festeggiare il 18 di settembre? Assolutamente no, se lo scordi! E partiamo allora, ormai non la filo neanche, vado avanti, partiamo con il 18 settembre del 1905! La so! Che cos'è? Questa la so, nasceva la grande attrice svedese, morta poi nel 1990, sì. Greta Garbo! Ah, beh, un mito della cinematografia, ricorda qualche film? Ma certo, una donna di classe... Prima vorrei fare però la seguente battuta, sì. Una donna di classe, sì. Di stile, una donna di garbo. Greta Garbo, va bene. Mi cita qualche film, gentilissimamente? Ma naturalmente, sono informatissimo. Ecco, Greta Garbo, sì. Ebbe il premio Oscar alla carriera nel 1954, pensi, sì. L'anno in cui è nato Frick Antoni. Oh, ilala. E 4 nomination come miglior attrice con Anna Christie. Ah, indimenticato. L'indimenticabile ed indimenticata Anna Christie nel 1930, sì. Con Romanzo, sì. Sempre nel mai 1930, visto. E con la celeberrima Margherita Gautier. Attenzione, che mente de ferro che ha Frick a ricordarsi tutti questi film. Passiamo ad un altro compleanno, se le va. Ma naturalmente no. Era il 1928, il 18 di settembre, nasceva un suo collega, un comico italiano, un grande comico italiano. Ciccio Ciccioso. Esatto, proprio lui. Franco Franchi. Che grandissimo. Ci abbandonò poi purtroppo nel 1992. Proseguiamo al volo con i compleanni di quest'oggi ricordando... Mariangela Melato, grandissima attrice, nata il 18 settembre belle del brava. 1941. Al volo, Frick Antoni, qualche film della Melato. Sono preparatissimo, ecco. Sulla Melato, anche perché mi piace molto e come donna e come attrice. I film, i titoli. Allora, con dica. Giancarlo, sì. Giannini, che, sì. Ho sempre invidiato, sì. Il film Mimì Metallurgico, ferito nell'onore. Chiedo scusa, lei sa che sono un grande un gaffer. Classico del 72. Un'altra, grazie. Fin d'onore e di anarchia. 73. Era d'amore, ho fatto un'altra gaffe, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare con l'Aragosta. D'agosto. Tutti i film della Vermeuler. Sa qua, è incredibile quanto l'ascolto si impegni quando lei mi imita alla perfezione, tra l'altro, Mike Buongiorno. La ringrazio. È un classico del suo repertorio. La ringrazio. Allora, con la voce di Mike. Passo a ricordarle un compleanno famoso, quello del 1964, esatto, laddove il 18 settembre nacque un cantautore italiano, colpo di scena, Marco Masini. Oi, ma non è rock? No, in effetti adesso che ci penso, non è, dovevamo depennarlo, no? Beh, dai, no, facciamogli gli auguri. Auguri Marco. Status Quo, Caroline, di Direi 7 e 50 minuti prima, anche se mancano qualche secondo, ma facciamo i precisini questa mattina a Rock FM. Buona giornata amici, buona giornata amiche, questo è il nostro compito, augurarvela fino alle 9, tentando di farvi svegliare al meglio possibile, di farvi gustare al meglio possibile il traffico. Noto che questa cosa dei lampioni crepuscolari quest'oggi ha carpito la vostra attenzione tanto quanto ha carpito la mia. Ogni giorno cresciamo insieme, ne scopriamo di più. Saluto intanto Lucia da Ravenna e saluto tutti gli amici di quella parte d'Italia che ci ascolta. Sei un grande, tutte le altre radio fanno schifo, grazie per l'attestato di stima. Un saluto a Marco da Cinisello, facciamo il gruppo d'ascolto Lampioni Crepuscolari. Un saluto anche a Dani, che ha ritrovato la canzone dei Beatles con la quale vi svegliamo settimane fa in una pubblicità. Una domanda lecita di Lele: ma quindi mi illumino d'immenso, è di un lampione crepuscolare? Ma quella è di un campione crepuscolare. Momenti di follia di altri radioascoltatori. Prima regola: svegliare il palazzo alzando la radio su Rock FM. Seconda regola: comprarsi uno stereo abbastanza potente da poter svegliare tutto il quartiere. Bravo! Benvenuto, sei dei nostri. Altri deliri. Guardate che siete messi malino voi di mattina. Senza pane, burro e rock and roll sono come un giamaicano senza marijuana. Beh, ci sta, insomma. Questo invece è un motto di stizza di un amico che probabilmente invidia l'avanzamento tecnologico della metropoli milanese. Crepuscolari, ma che cazzata! Guarda che è vero, si spengono a caso sti lampioni. Cioè, si spengono quando vedono che non c'è più luce. Adesso che l'ho scoperto, lo saprò. Ultimo saluto, Tania! Poi cercherò di salutarvi tutti. Finalmente vi ritrovo, dopo 15 giorni passati ad ascoltare Sirtaki, ritrovo il rock. Grande Ariele, di Creta mi mancherà solo la grappa, ma qua ci siete voi e l'affetto è lo stesso. E l'effetto, scusate, è lo stesso. Buon rock a tutti. Tania, bella grappa di Creta, giuro non l'avevo mai sentita. Al massimo, e ne approfitto per salutare, la grappa delle Dolomiti. Però, vabbè, oh... Se volete inviare una boccia di grappa di Creta, noi siamo qui ad accoglierla a braccia aperte. Che c'è? Pane, burro, rock and roll ed è subito amore. Scattano i Deep Purple. Tra pochi minuti sveglieremo i radioascoltatori delle 8 con il reparto Broadway, reparto musical. Mi raccomando, il 30 settembre c'è la prima festa di pane, burro, rock and roll e voglio il balletto. I have often told you stories about I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing old. And the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of you're not here. Now I Soldier of Fortune, Deep Purple. Dai, un ultimo brano. C'è qualcuno che è rimasto in panico, sta cosa del musical. È abbastanza semplice. A Rock FM alle 8 abbiamo un brano che ci tiene compagnia tutta la settimana. Da ieri, da lunedì, abbiamo scelto dalla colonna sonora di Air, del musical, Good Morning Starshine, seguendo il consiglio di un nostro radioascoltatore. Essendo un brano molto broadwaydiano, permettetemi il sillogismo, l'aggettivismo, abbiamo deciso di impararlo alla memoria. E poi domenica 30 settembre a Cascina Molue, qui a Milano, quando distribuiremo la patente davvero rocker, è ufficiale, dai ragazzi, c'è. Forse no, forse sì, chi lo sa. Bisognerà ballare la canzone, quindi rilassatevi con i Queen, The Killer Queen. Tra pochissimi minuti qui si balla tutti insieme, si canta, si impara a memoria Good Morning Starshine. The heart say hello. Quella lì, io già un po' l'ho imparata. She keeps him away, Shondo, in a pretty cabinet. Every cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. She spoke just like a baroness. Little man, trying out the time to gauge your mind. Then again, incidentally, she's a that way. Perfume came naturally from Paris. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. La tua colazione rock.